UFO. Ehi. Chi sei? Chi c'è? Io sono. E tu chi sei? Sono io. E chi? Come ti chiami? Una fucina, una giugana. Dove vai? Ha detto UFO. Ha detto UFO, non mi tacci. Cosa c'è? Non mi tacci, UFO. No, mi sto perdendo un decolettero rolante. Permetti lattici, aiuta uno al giorno a ridurre il colesterolo, me lo fai, eh? È vero. Questo è a gusto fragola, c'è anche il cuore disegnato con la freccia. Bonareggio, Pucci. Ah, ci sentiamo dopo, sta scena un attimo in campagna. Sì che c'è freddo. E io sono in macchina. E fuori di la cuffia. Sì, cappellino. Cappellino, c'è freddo ancora. Vai, sempre di cuffia. A frappè. Franceschi, Tore, ci sei? Grazie, dormito sì. Tu sei dormito, tutta la sera sorraggente. Oh, dormito ieri. No, me la vede nella TV. A me mi sembra di sì, comunque buonasera. Buonasera, Luca è sceso in campagna. Oh, a Rosile, ha fatto bene. No, non pensa, adesso ci sentiamo dopo. Vuoi dire se la fa da fare qualche commissione? Sei tu cosa stai combinando? Nulla, mi pare che è venuta e se li hanno dato. I funghi da Macomer, Antunna. Antunna di campagna proprio. Quello è buono col risotto, fatto col risotto. Catta, non ti dico niente, il sapore che gli dà. Lei pure nelle. Siccome me ne è rimasto da ieri, crudo di dire quello coltivato. Era buono in mezzo. Piace col risotto, quei funghi così. L'antunna, catta, è poco buono, catta. Ora, mangia bene, me ne fosse sempre, ogni tanto io. Ieri li ho fatti arrosto, nella graviglia. Lì ci sono tutti i cibi, bonari e digani, quelli coltivati. No, questo sta facendo il tegame. Aglio e prezzemolo, peperoncino, misciate. No, la settimana scorsa l'abbiamo preso in piazza dei segni, con ognuno mezzo, una faccia, poche porro, un po' soffrissate, così. E a me piace che io, quando fa la pasta asciutta, no, quello soffrissate agli uni, no? E quando fa la pasta asciutta in mezzo a sua, me la metto un po', ma lo sai che sapore buono che mi dà, ti dico che lo mangio con cuore proprio, Infatti di davanti alle domani mi posso gli spaghetti, cosa ne avanza con quello che rimane. È buono, è buono. E poi con il grido di campagna, vero, chi è più saurito, e ci mi vuole un risotto, catta. Però ma la sua è troppo caro, chi se lo vende? Ah, ma siccome glieli aveva promessi e glieli ha portati, è un'amica sua, è stato in occhio. Eia. Da, va bene, va bene. Ma, se non sa manco cosa mangiare, perché oggi abbiamo fatto la ghida con lo sughetto, anche un po' appena di agrodolce, così me. Ti dico, un bessuco mi ha preso un panino, cazzo me l'ha mangiato, e allora manco, se consiglia la ghida, buona vino, con la ghida grossa, cazzo. È buona, ma a me mi piace il favorito che dà vino più buona mi pare, fatta col sughetto. Chissà grossa russo è buona. No, oggi ho fatto brodo di manzo, buona vino in sagarra, infatti mi hanno buttato un bel pezzo e manno con due ossi bucca. Se mi navata di chissù. Ne posso un poco di spezzatino pure domani, se ne avanza. Ma penso che sì, è un bel pezzo umano. Bah, domani per essere questa falaccia, non ci. Oh, ciao, ti voglio mangiare così, anche ci mangiamo troppo a mezzodì. Voglio mangiare così. Ciao, ti mangio una mozzarella, un pezzo di cacio, e l'insalata di zia. Di campagna, capito? Mia, è così lente. Da mio figlio hanno fatto una buccia di chi siete mondessa, bene bene, con ogni fondo che piace 70 cm, ma bella fila, ed è così lente. E le sorti me ne mangio un poco. Buona, è bella buona, oggi ho cucinato la padiglia. Infatti domenica spazio per da lì, in campagna me ne posso un mezzo buco. Buona ridda, io non l'ho fatta la cosa. Poi quella che, come la troppa, tutta insalata così, mi ha fatta pure affrittata. E se esci dal raccio di palla, faccio poi due uomini, quattro uomini, ma come saranno, dorata ridda. E poi sono lui. Ci sono lupi buoni, che si proprio che lupi che fermo lui da produzione propria mia, però mi ha allargato un poco la cali. Chi si già rimangio, lasci di più dopo no, non mi piace, né. Da quando è successo i subarticolari che lupi erano domandati, da lì non posso vedere i lupi di negozio. Solo che si proprietà a magno io. Lo che veda, un piccino che veniva sempre di campagna azzurra, sbagliato sullo grattacielo pure, su commissione, pure no che veniva. Non si è fatto più vedere, molto diverso, chissà che fine ha fatto. E ne arrivava mio, veniva con un fiorino, era piena a balla, tutte uova. Di campagna di Eti, va via nei giardini, buchi, di giù, non si è fatto più finire, Eventualmente ho avuto la cassa un cliente, per i bigliaduzzi, allora, non si è fatto vedere più, ma a me l'ha regalato Maienna da Corsini, capito? Ti dico, era il monofilo, roba che fa niente in campagna, capito? E allora mi ha regalato un poco. Ancora mi pare vedere un paggio. E si dico la faccia mi vuoi fare frittata di asparagi. Chi sarà più la fatto che si decide? Non si è fatto più vedere. Noi eravamo a cucare con lui. Ed erano i venti maturi, venti, proprio. E ne rimetta erano. Ma era un bel sapore quella uova, veniva pezzo lungo, mi faceva pure a tutti lui. E non si è fatto più vedere, mi pigliava cartelle per il bigliato, però gli dovevi trovare la cartella che gli si piglia, ma pulita. E poi un po' di gente gli dava anche il pane duro. E già se ce li buttava pane duro all'animale. Morto. Sì, speravo che sia morto, diavolo. Che sia bene, vuol dire che ha trovato le curette, che lo paga anche di più. Grazie, ci sono tante cose, chi ne sa? Oh, oddio, sa, nella vita siamo di passaggio, non si sa mai cosa può succedere, però gli auguriamo che non sia andato e che sia bene, capito? Chi da a fare la pulirbanolina a figliola, a chi non rimane in femma? Che ti sta a guidarmi alle rosse? Sentito mia! Bello bene, caduto sì! Caduto sì, Giovanni! Tutta la pasta! Vieni! Tutta la pasta! Non ti sento bene, spostati un po' a vedere! Grazie! Dimmi! Sono andato a aprire che è venuta tutta gente, capito? Poi di Roma Giorgio Uomo, fa aprire la Iana, l'uscita dei bimburi! Non ho capito niente. Ha puniti un uscedi la Iana, a Luca. Poni a Luca, uscedi. Ah, chi si è divertato lì, è divertato. Avvio, quello è divertato lì. La canna ha fatto di là. Lo fa entrare non più in PMR. Ma ne manco la 20 gente, si è pendente in di più. Mi ha mandato a rimanere una carrellata di, cosa vedano, boccacci, da poi vedano frittelle, deve essere dedicata alla cucina, cucineggia e vendi, chi li rende di più, così ha detto. Ma no, che non è che abbia vinto l'otto calcio, no, grazie. Che balestrano che sono, a ritirarsi così tutto un tratto. Ma si vede che va di là, così che ha mollato l'apparecchio. Grazie, butta la testa. E allora, ricco è diventato. Ho sentito sottofondo qualcuno che vuole entrare. Avanti. Che male sentito là. Ma non ho capito chi è arrivato a tratti qua. Io gioco! Me non riesco a sentire, cosa dici? Prova a farlo venire avanti. Avanti l'amico e puoi entrare! Butta la pasta! Ma buttare la pasta, dito me! Allora ci ho preso! E che pasta? Ancora non è pronto, non è ora! Ma sarà la 25 di Luca? No, sarà con Luca in campagna. No, non è il vino. È uno, scimmiato, sì. Il lungo, ma lunghi ce ne sono tanti, Non lo so, una scimmietta era. Addirittura? A che pure i sardini avevano i scimmi? È pieno, vai a Cagliari, è pieno di scimmi, pure no, che basta passare sassa di peggio. Ci sono oranghetanghi, scimmie, Godzilla, di tutta cazzi. Ma quelli sono i scimmie domestici però. No, già bisogna che si arresti, che bruciano i banani. Ah, ecco, quelli che bruciano le banane, allora sono diverse. Ma no, quella persona non era chi bruciava le banane, no? Erano altre persone più che mangiano bene. Tu che stai parlando, Giomma? Scusi, di Zulu, è pieno di scimmie. Di scimmie, il bonga bonga. Ti stavo parlando sopra, Avanti! Insomma, lì avanti non entra, va vedo, fa vita, boh! A chi te ne fai la puzza? Giovanni, con chi stai parlando? A te ti sento bene. C'era anche la voce di un uomo pure in mezzo. Ciao Mario, ma non mi intende? Ehi, a ti intendo, e chi è ese? State invecchiando, state invecchiando. Ma con chi stai parlando, ho detto? Ah, Franco, Ehi, ciao Franco, buonasera. Con Graziano sto parlando. Ma c'era una donna sotto sotto che non si è riuscita a capire chi era. Capito, Fra, e il terminaro, Fra. E il terminaro, Luca. Non era donna quella, era maschio quello lì. Non era donna. Voi l'avete cercato e lui è entrato. Fra, cosa sei? Ma perché non parlate il 27 che non vi capite uno con l'altro? Tu, a volte qua non arrivi niente, come poco fa. E 27 Graziano, non lo vuole accendere, per non lasciare tutto in mezzo ai piedi. E io ce l'ho acceso, e lui non lo vuole accenderne. Vuole accendere uno o l'altro. Ma accendere la 27 che è meglio. Almeno vi ascolto tutti, vi ascolto. Oramai già sa che non è acceso, perché la devo mettere qua in cucina, sappi? Se la più presto la premessa, ma là non è buono. Non ho capito niente. Riprendi Gianmarie, comunque buonasera a tutti, dai. Ok, che adesso ha detto che non le mette adesso, è già tardi. Capito, siccome lui non c'ha posto, Fra, così che deve mettere o uno o l'altro, capito? Non è come noi, che abbiamo tutti e due accesi in un punto, lui purtroppo non lo può fare, allora fa così, capito? O uno o l'altro. E poi ha detto stasera, dice, troppo tardi, se no l'avrebbe acceso. Tardi? Perché che ora sono? Le 7:05. E lui l'ha presa in quel modo, così è graziato. Allora, il burretti sono accesi, no? Che la questione deve camminare e cucinando, Ma non si sempre cucinelli, cucinano. Puoi cucinare anche a parlare se uno vuole. Però è come tu hai detto l'altro giorno, che ne vuoi avere tante cose in mezzo ai piedi, e quello è già un'altra cosa, va. Aspetta, mettiamo in la vita. Vai. E allora, Fra, cosa mi racconti di bello? Cosa ti racconto? Niente, Giomorì, sempre lo stesso tram, casa e lavoro. È importante che ci sia la salute, Fra, il lavoro. Quando c'è la salute e il lavoro, sempre che uno non ha Giuseppe Gana, e tutto va bene, e cosa ci vuoi fare? Ma già ti dico, quando lavoravo io stavo più bene, mi sentivo sempre più bene. Già sono passati degli anni, però stavo sempre più bene quando lavoravo, sempre in movimento, aveva tutto acciaccato, tutti gli acciacchi ne sono scendi, e per cui cosa fai? Ma sta pure mandiamo da si bra. Piano piano, io Mari, piano piano. Ma anche lavorando, arrivano gli acciacchi, purtroppo. Diciamo che man mano che si invecchia è un casino. Noi ce ne sempre dei rinnovi. Infatti è così. Non è che si possa fare diversamente. Alla nostra età, 80 me ne so innatomi. Fra. La l'idea se ne vuole soltanto io. Capo, vedi. Vuol dire, caspita, cosa vuoi arrivare a 80 anni senza acciacchi? Se ne fai 80 auguroni allora, quando gli fai. Caspita, magari se ci arrivassi io almeno. Magari avviene sempre, non manca mai, così che... Invece oggi ti lo fai appetito, a chi si fa l'appetito gli ammaglia uno. Per quello, se arriva l'appetito ce n'è sempre, anzi, a volte mi freno, perché sennò mi mangio tutto l'altro che cuci. Comunque, tanto ci manca quello lì, per cui mangiamolo ugualmente, dai, siamo piano. è la notte, a me la notte tocca stare un po' a leggere, mangiare leggero per stare sempre più bene, così che invece durante il giorno puoi mangiare quello che vuoi e bisogna approfittarne. E c'è la notte, se mangi leggero va più bene, va? Vabbè. Cioè, guardi, quando c'è l'appetito, non c'è niente da fare, solo che a volte ti freni per una cosa, per l'altra, sono tante cose, perché mangiare troppo non è che fa tanto bene, mangiare poco, fare la fame è peggio, e bisogna mettersi in una linea di mezzo. Vabbè, dici, ma niente, l'appetito di Saghito. È vero. La frase, l'espressione. Graziano, provo le 27. Hai visto il bicchino? Hai imparato la parità in oga. Un attimo fai allo salato. Grappa. A Vicenti, fra. Sì, se lo mette l'antenna, se lo mette l'antenna a sera la tua. Eccomi qua. Sono andato a aprire. Caspita, è la carabetta italiana, da tutto il fuori del cancello, il piano rosso. E la diana la carabetta. Se ne andati a fili il portinaio, capito? Dice che tocca aprire lui. Il fili se ne è andato, grazie a... Dice che tocca pesazzini lui. Finché non rientra il portinaio. Pittina, riprendi il Tore, non si è fatto sentire, ma chi sia nemmeno. Oh, Tore, mi pare che devi avvararsi a mangiare i cani. Bacchisio, non si è sentito, sarà di tenere un pigello, ma ricurrace la fava. Chi si ha sentito ricurrati, la fava si ha sentito. Pare i curracci, e pare la mirula, pure la mirula è. La mirula si attacca proprio alla tiva e comincia a brilla, si mangia tutta l'interno e basta la buccia attaccata. Anche i curombi no, ma a me se fa la mia quando mi la fa lui, i curombi lo sa pannone, chi ce l'ha riservato? E la regava a casa, li poneva in frigo, io si fa la gnameria e la buccia. Poi la sera li poneva in leva a casa, e un secchio, li piglia, l'apri la pasta e ho paviani trigo, ho piscello, ho favette, in panza. Ma ci sono belli di chi bisogna che mangia la fava e il bisello. Grazie, ma voi c'è grazie buccia, bella cazzo, un gatti di base di salonga, mica. Cazzo, e tu che sanno, la macco, le maniamo. Ti avevi deciso di... Hai detto, da sé, anche due o tre di... Da buccia, la vengo, le buccia, la buccia in frizzere. Se siamo fanati. Cazzo, a bel tempo. Non finire ora in tria. Tutti bucciata, non mangia, mi mancava la fava, è lasciato lungo la grena, è lasciata attaccata alla pianta. Ma tutta ce l'ha mangiata, tutta pareva fatta apposta. Ma la voce non la giubbotto più e tu, andami la comprare giù, e così, cazzo della voglia giù fatta, poi non la giù mangiato, cazzo, e non l'ha già arrivata, se l'ha già saputo la chita prima, l'abbiamo fatta, cazzo. Così è passato da che storno, i vivi, ha visto la fava e ci ho parlato a mangiare, credi che sono mappe in bisogno, mica dopo ora ne ha baita nelle campagne, si vede che vede mangiare, parlare tutti in gruppo, a mangiare, in quell'occhio che ci vede l'acqua dalla finestra. Allora sai gli stormi che ci vedono un bel volte, ci accalano dentro l'orto. E allora chi se l'ha piazzato, chi sa fare che scoppia, ne vedi fuggendo, e rimbattono fissamente ai nocchi, rimbattono. Un gruppo di bizzoni. male, scusate, che si vuole magari? Allora, pure chi si fa legna media, lo sa quanto mi pigliavo, dice, 30 la legna media. Sì, era pieno, la sera. Il bilissagno, il solito, sono sempre i bilissagni di Brattamona, è sempre pieno, che è prorumato e matta nei chili. E ho iniziato il basaio che ha trovato una nuova barca, tappa l'illusione pure quando bastano. Sì, da noi erano proprio vicino allo stagno, la falegna mia. Tugnano un volone, saccalavano il buro tutti innanto alla capitura della falegna mia. In terra, in piazza, alle 30 la becchi subito in campagna della falegna mia. Tu lo vedi una mano, vedi solo una mancia, niente, niente, è un casino di cinquetti, tutti cinquettetti. E li trovano un vetro del capannone che andava a becco, e sa pollaia e vanetti che si battiano i ranuti. Vediamo se c'è qua Franco. Franco, Franco si vede che ha chiuso. Beh, so che i viricani sono sempre pieni. Però ogni tanto cucine. Non ha mai mangiato di chi? Dici che sono buoni, boh. E cosa? I soliti. Capita se sono buoni, sì. Io li portavo a casa quando lavoravo per fare gli amici. Sarravo gli anni, non ero frigo. E cominciavo con la spalazione o con le cucinette a mano. Ma ci finiranno un bel no. E curiamo un montone e venivano in barava a terra, uno, due. Andati a pigliare e tiravano un cuccio. Poveretto, gatto, se mangiare e tiravano un cuccio, gatto. La gatta, criminale, gatto. Sì, ma invece mi rimaniamo in gatto in mano, ma mi hanno un cuccio di lui, e fanno la mano, al gruppo mi hanno tirato. Allora ce la fa, bruca. E ogni tanto fai che c'è il burro che ha dato a noi, no? Proprio vicino a noi, di fronte a Tareggio. Ogni tanto si fanno le chiedi, quando si fanno le chiedi, da noi, che diventa l'albero niente, diventa. La foglia non si vede. Ma sai che io dico che la fusilata, non sai quanto ne fanno lì. So. Fai, io mi avevo accusato la metà fusilata. Certo, da ne faranno un pezzo. Signor Graziano. Ciao Bacchi, e beh, è arrivato, sì. Tutte le fave ti hanno mangiato. Ehi, disgraziato, buonasera Gio Maria. Lasciali mangiare che anche loro devono farsi la pancia. Ah, Bacchi, buonasera, ben sentito. E ma che se la magna riuscì senza sale, senza niente? Non è facile a revisare, la magna direttamente, Bacchi. Lascia rimangiare, Gio Maria. La fava non addocca, ne è 30 la serra, è serrata, dunque. Non entra. Fregata la finestra. Se è serrata, allora lo entra. Però, grazie a te, se sei stato accompagnato un capanno della famiglia Maria a mangiare la segatura, Edo lo ammazzava. Allora, Edo ammazza tutti. Oh, yeah, grazie, no, avanti. E allora, la sera, quando adesso che mi decido, inizio, mi venite a fronte tutti i trenti, tutti in fila, in altra cultura da dirigere. Dei tirati che c'erano sopra tutto nel cornicione dei vetri, delle vetrate. E li fasi a beffa, lanciando i cuscinetti e li vedevi uno parendo in terra e corrifuravano da un capo all'altro, si fudiani pur fra di essi, al muro, alle vetrate e caccaduno li parava così a tutto un altro. Infatti, io si era tontonato le paravane e venivano, e quando era Francesco ne avevo pigliato i chili. Ma sai come te li pigliavano? A sacchi. Ti entrava dentro un capannone e gli filava il tubo dell'aria, dentro all'aria, ponevi un tubo flessibile a un sacchetto, piccava in tre macchine e gli entravano a 30, pieno per un sacco. Ma falegnamiglia ne entravano un bel pizzone, di tutti i caridai. Oh, ne portavo un sacco a casa. E prima sì, prima io andavo in lì. A milioni, vedi, amica. Perché mi si accanto l'avevo mangiato. Solo le coscette però si mangiava, via, solo il lascio di lampavi. Chi era di mente grassa, ha scritto lui coscette, io facevo anche il sughetto, il sugo mi facevo. Ma una rete era lì, con la pasta asciutta. Così è, avanti Don Marì. Sì, ma grazie, ma per la base a rossicare i lussi, grazie. Ah, succiato la pazia, dici a luce, lucido, lucido. E poi, quando li faceva alla cacciatora, una succiatura, dici a luce, lucido, lucido, li succiava più buono era. Dai, tende, bacchi. No, non ci mai mangiato, visto di più animali, mai, mai. Mai, mai. La succiatura, padre, Graziano, se ne vuole una saluta. Oh yeah, vabbè. Si succiava, o se tu, tu ci e bacchi. Sì. Grazie a fare la succiatura, o se tu ti dico di già. La succiatura anda. Il coso, lo si da lì, dove si parava i 30, i minoretti, rimane solo e non fa la vola. Chiudi la bocca, mi nati il puntito di Ussi. Ma, oh yeah. Vabbè, gli altri si hanno mattessi da bui. Hanno bacchi. E andate se a pattinare i soldi da torre. Da torre senza motore. Dimmi che cosa? Ho tirato via là, gli sterlini. Il PAM. Sì, è venuto qua, me l'ha portato qua. È venuto a casa, me l'ha portato. Il PAM. La moneta di cosa? Di plastica. Avvaitami, avvai a cuscenne e non ventrami, avvaro già me, signor Pan. Ma t'ha rigato, lo pan e la mortadella? No, lo pan è solo, la mortadella non venna. No, ma non venno, grazie, è andata a pigliare la moglie. Lo sente, se da Luca già salito sei da che impegni? Sì, sì, che impugni, allora. Con pugni e poi sono andato da Cinzi e poi sono andato a prendere le bolle. Ehi, allora mi da Franco, ci avvenni e non mi sentiva. Un pezzo mi ha sentito, poi non mi sentiva. Mica c'è Giammari, avanti Giammari. Per forza, si è riposato con la terra, che è chiaro che non sentiva. Invece il busato sopra la cadrea è stato inteso. Buonasera fra, Lu, ben rientrato. Sì, ciao Gio Mari, buonasera anche a te. Ho fatto una modifica a qualcosa, a quell'alimentatore. Gli ho cambiato il capo, gli ho messo più grosso, gli ho messo col capo a tre fili, con la massa a terra. Poi, cos'è? Ah vabbè, gli ho isolato bene i fili che vanno attaccati allo spinotto e poi gli ho fatto un altro attacco a 12. Oh, ma il territorio è bella fettola, l'hai messo? No, no, mi devo fare un salto lì da Fusaro, ho la GBC che devo comprarmi, mi serve roba, là, me lo compro, così l'ho piatto. Beh, vanno bene, poi avrai visto che altafuglio. Va bene tu, va benissimo. Almeno ce l'hai, sei tranquillo, riprendi Bacchi. Ia, ciao Luca, buonasera, ben ascoltato. E così è. E dunque sei in riparazione. O in costruzione, Luca? No, già risolto, dai, già risolto. Già chiuso, già piazzato. Mi ho fatto due staffe piccoline e me l'ho piazzato sotto il mobiletto lì. Adesso due uscite da 12. Ne ha una dove c'era la prima e una sotto ne ho messo. Così più tranquillo. E due uscite servono sempre. Vanno bene. E Graziano, quante uscite c'hai, Graziano? Ne ho due con gli appositi morsetti, cosa si chiamano? minuti. E poi volendo lo posso attaccare all'esterno che ci sono tutte le viti con le placchette, c'è il copertietto in plastica. Posso piazzarne anche due lì di bussoluti, di spinuti, femmine, e posso attaccare due cose, tanto è 50 ampere, quello che c'ho io. Posso attaccare sia la 27 con quell'alimentatore che il DMR. Sì, infatti. Fate così, no, io ne ho due alimentatori, due messi insieme in parallelo, uno da 30 e uno da 20, e ci sono 2, 4, 6 uscite, 7 ce ne sono, 7 uscite ci sono, posso attaccare 7 radio. Ma magari neanche il mio, il più vero Gian Maria, guarda con le Gian Maria come uscite. Ci possono attaccare di più, vero, Gian Mario? Dove ci sono tutte le vittime? Davanti, se ne posso attaccare due o tre, mi sembra. Ci sono certi tipi che ne hanno due, c'è certi tipi sempre allo stesso preciso, no? Però quando sono lì davanti, invece a fare due, magari ce ne ho tre o quattro, capito, di attacchi per 12 volte. Dunque no, non l'ho guardato mai, però già ne ho attacchi, volendo attaccare altre cose in quell'alimentatore, capito? Ah, io sono abituato, ma lo attacco una cosa azzurra all'alimentatore. Ognuno va all'alimentatore studio, là quando lo tratto, se uso quello là prendo l'alimentatore. Quello che uso sempre per quello, se uso quell'altro prendo anche l'altro alimentatore da 30 ampere, già fa bene lo stesso. Io lineare, lo lineare da 1000 watt, E cosa succede? Che gli ho fatto 8 attacchi, gli ho fatto 8 prese già in giro. Non che fa parte della roba. Ehi, va bene, ma lui non ha di bugare da puttana, ma fa così lui. No, prima sì, magari adesso lui. Metterà con giù se ce l'ha potuto un'ora mai. Sì, Gian Maria già si affetta, lui già è là fuori nel magazzino. Vero Gian Maria? Ma prima però. Ma lui. Che tocca più niente, va. Ma le mattature già ne ho. Ne ho uno nuovo per la Prozel che me l'avevo ordinato perché c'aveva quello di 50 ampere. Quello che si è preso a 15 kg mancava la corrente, ogni tanto si distaccava e si attaccava. Allora in mancanza di alimentatore allora ne ho comprato uno da 50 ampere e invece avevo dato già questo che era guasto a una persona, me l'ha riparato, adesso sto usando quello che mi ha riparato, quello nuovo lo mancava dentro la scatola e dentro la mare, mi immagina. L'alimentatore non me ne manca, pensa a quello. E questo che c'è adesso, che sto usando adesso, è 50 ampere e c'ha 6 attacchi, c'ha 6 attacchi, 3 dietro e 3 davanti, puoi immaginare. Chi è che buffando? Chi è che stava soffiando avanti il soffio? Capito, ma che ne ha 6 attacchi da 12 volte, puoi immaginare. Per cui, e poi c'è quanta pelle, ne può attaccare 3 o 4, capito? La voglia di attaccare apparati, perché tanto tutti insieme non si fanno mai funzionare, dunque sono tranquilli, capito? Sono tranquilli quando attacchi tutti. Avanti, Lu. No, vabbè, mi bastano 2 attacchi, poi se in caso già si può modificare, se ne possono mettere altri 2, altre 4, quanti tu vuoi. solo. Si puoi mettere, basta fare punti e contropunti a voglia, mettere banane. Graziano invece nulla, non ne vuole fare. E stacca uno e attacca l'altro. Avanti Graziano. Che altro chiama? A te. Oh, lui. Eh? Davanti, e puoi mettere un'altra parecchia davanti, ma te lo cavo, tu anzi, due attacchi ci sono, già te li ho fatti vedere già. Però guarda bene, se dovessi attaccare, guarda bene che davanti c'è sulla destra, mi sembra che c'è la 220. Gli altri alla sinistra mi sembra che sono due attacchi, puoi attaccare altri due figli, capito? Sì, lo so, l'ho visto, l'ho visto. Voglio anche segnati quelli a 12, quella a 220. Beh, infatti. No, ma fanno bene, ragazzi, è un buon. Capisco, non si abbassa, Cazzo, noi lo cammina sempre, è un buon buon. Va bene. Avanti, Graziano, sai che aiuta a cadere a Bacchi. Graziano, andate nell'ufficio piccolino. Capito? Andate nell'ufficio piccolino, Graziano, che avvenire subito. Adesso entrerà il signor Tore anche, dunque, adesso, adesso è arrivato, Aspetta dentro subito, riprendi tu, Giammari. Cos'è che sei girato la penna? Quella brutta, cosa sei girando? Boh! Va bene, riprendi tu. Gatta, sempre mai niente, su Graziano, boh! Sempre mai niente, Se la mangia di diventa bimmanno, guarda, la manco diventa bimmanno. E Luca Flippero, buono, si è sentito oggi. Sì, lo sai, quello lì sempre sul tetto. Ah, mi sa ancora la braga bicciuria. Girando la tenna. Da, va bene. Avanti. Bacchi. Ehi. Grazie, non si è sentato, va, tutto sentato, capito, vai giù la valigia e così rendi la cosa, lenticchia e così rendi, capito, sta cucinando le lenticchie. Ah, non sarà fede di frigioni, no, va a caso, da mattiosa che ci cosi, chissà che ci avrei le frigioni, se ne fosse assaggiare. Ah, così è di frigioni, e allora andiamo a fare le visite, va. Andiamo a fare le visite a Graziano, ma chi suoi che ogni poco si assenta che imbuttendi? Deve essere pagissimo, grazie. E forse ha fatto la base a Graziano, va, è la maniera di Graziano. Grazie a Boniso, va a bocca piena, non rispondi. Vai tu. Passa, promodolati, ciao, bacio. Non rispondi no, Giammarì. Per carità. Luca. Sì, è pignato, Pignato ma chi grandi è, Giovanni? Ma se messi che le frizioni in grada trucca oggi, gatta. Ah, Graziano, che sviluppo bene, ecco, a noi non si dà di frizioni, Luca, gatta. Ma Graziano, purtroppo bene, a noi non si può bene. Ah, così, a Luca ve la rigate, a noi no, hai capito, Mari? Luca ha rigato di frizioni, a Graziano a noi non se ne ha rigato. Brutto maledetto. Immaginati, Luca. Boh, e sa di che ho qualche ciobo alle amici, gatta, boh. Tutta Graziano, vedete, se mangiati, non lo so chi, vabbè. Ingrato, già ne uscito così, luci. Boh, ma ci vuole bene, sì. E allora, per carità, Bacchi, ma tu immaginati, gatto, c'è Luca Flippero. Ho la capesura, sopra. Oppure per i frisuri? I frisuri sono. A male di cose, sono caldi ancora e non si vuole mangiare. E buffendi. Ah, così è. Chi se sia così a vero? Ma fra poco la ciamma mia, la città che entra, va, lo dice subito. Che fra un fuoco, andati tutti, sono troppo ciccato che farà colpire i frisuri. Lo credo, è poco ingrato mica, è poco ingrato mica. No, è ingrato. Se cosa di mangiare già dividi con tutti, capito? Se andrò poi mangiare già dividi, Graziano. Graziano, ma non pensa a noi, burla, tu non ci dirati Luca, gatta. Ma non pensa a noi, fatela assaggiare, si sono buoni. Buoni, prezzemolo e aglio, antunna pura. Ma noi siamo a fare le frigioni che ti ha dato Luca, chi ti ha mandato Luca, gatto, no, di Antunna. Aspetta. Dimmi cosa. Boris, l'ufficio ti ha mandato Luca. Fotografia, sì. A meno che non erano in pratica. A chi è di verniciare tutta, va? Ah, è vero che tu hai pari amici mandare le fotografie lo contenuto, no? Sono fotografie, credi, si credi, gli amici mangiano fotografie, boh, lui! Uia, bubu, allora vi si pensano, no? Luca, fate i simili, infatti sono meravigliato come ti ha mandato a cacciare una fotografia, pure a noi! Catto, ma allora Marco si vuole fare di lettere, di assaggiare, dico Marco, se sono buoni. No, le fotografie si manda, i frigiosi di Magliareddu. E allora, vabbè, ci cadiamo i bagnotti, fatte con la crema, a chi l'ha riempito il burro di crema, pasticcera. Un sacco di roba mi ha mandato. 7-8 pietanze, tutti vedi i legami. Ma chi? Capito? Beh, 7-8 pietanze, ma no che... Ehi, ma... Ma sai cosa vi dica, va, mi pongo a mangiare io pure. Mi pongo a mangiare. A chi? Mi tocca a me graziare, lo sai tu, mi tocca a casera. Il gioco di turno, ora ci ho messo il turno a mezzodì e rimane a notte, dunque il gioco di turno oggi. Quale pavette, bevi la appena appena con il sale, mi, quelle tenere tenere, ti fai buccelli, vai fondendo di usare e magnelli, capito mi hai? Capito mi hai che gioco fa perché non ne posso mangiare, capito mi hai, non ne posso mangiare a fava, io la posso mangiare all'altri. Arrega, no, che io mi mangio io e Luca, vero Luca? Ehi, ehi, ma rega, bacchi. Ehi, no, è che periodo sono invalido, dunque non posso fare nulla. Venimmo noi a farla, io e Luca. Questo è il cane, vi posso chiedere a voi, non vi conosci questi cani, che caspita. Voi vazzannami, mi tagliate i pantaloni e dopo i bagafi pure i pantaloni. Non mi posso chiedere a me un cane che gli fanno una paletta di mangiare, stati di chi vi impegnati ma niente, e noi vengono la fava. Io e Luca, diglielo lui. È tanto. Io, sono male che si pulì la fava a me. Attimo, ma... A me Baresi, lo si, la si fa Graziano, ma dai campagna a sappare la fava, non li ingrisci, davvero, la siamo a Pisilucca, non là la campagna, ma Graziano la campagna, gatta, ma mi pare che le scendo lo scimpanza e non si può girare, e la foto all'astri, non lo so chi è, però non è giusto, Graziano. Eppure all'astrano, bro, qua, la palla così a vedere si cresce senza zappa. La palla così senza zappa, la vedere si cresce. Da voi capisci a vedere poi se sono cresciuto o no. Fai tu la pelle di corracci magnesi, allora gli animali. Io oggi l'avevo pigliato un dracchino, io oggi l'ha pigliato e l'abbia a tre segna, chi la sacchina abbassata l'abbiamo butta. Ah, sta buona filo, una buttita che sta c'era in sciogliente, buona saurita proprio. Oggi l'ha pigliato un dracchino, che lui la fava, la mangiamo, però se è secca, non fresca, pure fresca la mangiamo, ma che c'è la secca? Oggi è buffo. Pancetta, scatta, e un pezzo di lascio burro, caura, un bel caura, fioccio, voglio mangiare, scatta, ha già fatto, pranzo, cena e pranzo di domani, burro, una bella mamma davvero, bacchi. È buona che la può mangiare, capito, ripeto, che la può mangiare, io non ne posso mangiare, e dunque niente. Bene, signori, io vi lascio perché... Gioco di turno stasera, ripeto, mi tocca di mangiare stasera, lo digiuno è finito. Ciao Gio Maria, ciao a Graziano e anche a Luca, con la buona serata, vi auguro ancora buon QSO e Bacchisi vi ascolta fino lì, forse in QRT. Avanti, Graziano. Ciao Bacchi, buona cena, buon tutto, a domani se coincide, vai Luca. Yeah. Ciao Bacchi, salutoni, buona cena e buon tutto, alle prossime. Ciao ciao, avanti Gio Mari. Mi raccomando, un po' leggero chiedete Bacchi, ti disgraziato, ho fatto venire la fame, l'acquino ti ho fatto venire che disgraziato stasera, per cui piano piano deve pigliare le merende, tranquillo, è un po' leggero, chi sia meglio, no? Quando mangia leggero la notte, capito? Ah, ma qui stai più bene. Ciao Bacchi, ci sentiamo, buon pranzo, saluto in casa, ciao. Ciao ancora a tutti gli tre, ciao a tutti. Mi pare che è buono il tanque. Pare che è buono il tanque, ma con quattro, per cui ne approfitto, dai. Buon precedente ancora a voi, Luca e Graziano. Mi raccomando, rinvigione, mangiate di tutti, grazie. Basta un po' con Luca domani. Ehi, anche io chiudo, dai, state per fare su mia, tra una cosa e l'altra. Va bene, ciao, buonanotte, buona cena, a te al QRA, Luca altrettanto a te, a domani se coincide, rilancia a te, vai. Sì, ya. Ciao Gio Maria, ciao Graziano, dai, buona cena, buonanotte, a domani, ciao, salutatemi le vostre 50, ciao.